Cox spaziale. E rieccoci di nuovo in studio per la 119esima puntata di Cox spaziale, insieme a Roberta in veste W giallo, sì, e Paolo Piermattei in veste di super mega ospite della 119esima trasmissione. Detto questo, cosa c'è adesso? Cosa c'è, Roberta? Io ormai lo so a memoria. Adesso tu lo sai, Paolo? Tu sei preparato? No. Allora sarà una sorpresa per te. Adesso c'è l'angolo della menzione. Niente poco di meno che. Sei carica? Poco di meno. Niente poco di meno che. No. Carina. No, niente. Come si dice invece? Niente così. Poco di meno che. No, niente poco di meno che. Niente poco di per Matteo la dà a me. Beh, poi verificheremo. Sì, sì. E comunque, visto che sei così bella pronta, a te la prima, vado con lo stacchetto. Sì. L'angolo della menzione. Domani, venerdì 27 alle ore 20, vi aspetta Winter Family Ateliersi. Brothers vuole essere un atto simbolico contro la follia umana, l'ostilità e la sofferenza. Per la fratellanza, la compassione e l'amore, un pensiero e un grido collettivo per la pace. E questo evento in realtà è articolato in due giorni, parte il 27 e va avanti fino al 28, e abbiamo in collegamento telefonico Tihana Maravich che ci spiega un po' di cosa si tratta. Wow! Nello specifico. Ciao Tihana! Ciao Roberta, ciao Sedra, ciao Radio Fisico, grazie per questa chiamata, per l'invito. Vorrei raccontarvi un pochino di Winter Family, appunto. Si tratta di un duo franco-israeliano, lei si chiama Ruth Rosenthal e lui Xavier Klein. Loro sono una compagnia teatrale e anche un gruppo musicale e sono in residenza alla TLC durante il mese di novembre. Sono in residenza grazie a un incontro felice che è avvenuto tra Winter Family e Giovanni Brunetto, che è il nostro direttore tecnico del collettivo Ateliersi e della TLC e che è anche un artista visuale. Giovanni si è innamorato del lavoro teatrale e musicale di Winter Family e loro del lavoro visuale di Giovanni, ed è nata così l'idea, ed è nata anche grazie a questo l'idea di una artista loro qui da noi, che ha come scopo la produzione di un video musicale dove Giovanni curerà la parte visiva e Winter Family quella musicale. E quindi il finale di questo lavoro sarà presentato sabato alla TLC, sabato 28 novembre alle ore 22. Winter Family fanno una musica che loro amano definire Weird Wave, è una musica dark, minimal, satura e anche politica. Ecco, su questo elemento politico vorrei soffermare un attimo per introdurre invece la serata di venerdì 27 novembre, che inizia alle ore 20 alla TLC e prosegue con una performance che si chiama Brothers, nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, la chiesa che si trova proprio sotto le due torri. Winter Family vive a Tel Aviv e quindi vive sulla propria pelle lo stato di guerra perenne che è caratterizzata quella zona del mondo e soprattutto il conflitto tra Palestina e Israele. E quindi hanno fatto già diverse volte sia a Gerusalemme che a Parigi che a New York questa performance Brothers, che è appunto, come Roberto ha detto nell'introduzione, un atto simbolico per la fratellanza, un invito alla fratellanza. E quindi per loro è importante farlo appunto nel luogo della preghiera, che è la Chiesa, e noi a Bologna siamo riusciti ad avere un ascolto, un'attenzione del parroco della chiesa del Fratello Gaetano, che è Don Stefano, che ci ha accolto a mani aperte e che addirittura ha avuto questa idea di presentare il concerto proprio alle ore 21:20, che è l'ora in cui sono iniziati gli attacchi a Parigi. Il 13 novembre e il 27 ci saranno proprio due settimane di ricorrenza da questa ultima strage. quindi si tratta di un progetto estremamente, ai noi, attuale e per il quale è proprio il caso di unirsi tutti insieme ed essere di nuovo accolti in questa fratellanza. Winter Family poi è un nome molto suggestivo e per approfondire poi da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete tutti i link per approfondire il progetto, tanto nel soggetto dei Winter Family quanto per ateliersi. E adesso ringraziamo Tihana e ascoltiamo un brano. Grazie a voi, sì, assolutamente. Io vi invito, se volete che andiamo insieme in chiesa, se facciamo insieme questa passeggiata, vi invito ad un incontro venerdì sera alle 20, ci troviamo all'Atelier C, si ritrovano le comunità, l'ebraica, islamica e la cristiana cattolica, per fare un saluto e per entrare insieme nel mondo dei Winter Family. Meraviglioso, sì. Grazie Atelier. Grazie. Veramente, sono eventi molto importanti per la città e la cittadinanza. E noi adesso ci ascoltiamo un brano dei Winter Family per entrare più volentieri Nel mood di quello che sarà da venerdì a sabato. Grazie ancora, Tihana. Ciao. Grazie a voi. A venerdì. I look at her shedding tears. What a flowing from her eyes, her body still dripping milk. From the heart to the earth, down stretches her arms. Goodbye, goodbye. Almost sleep, but then I look at this young man, extinguished eyes, an accomplished smile. Let the light be born in you. Follow your little star. Stretch your arms up high. Goodbye, goodbye. Almost sleep, but then. Look at this little girl, smiled, filled with diamonds, laugh filled with bells, playing with her star brother secretly. Stretch your little arms tonight up high. Goodbye, goodbye. Almost sleep, but then. They go walk this land, follow a little star that shines just for them. Stretch your arms tonight up high. Goodbye, goodbye. There they go walk this land, follow a little star that shines just for them. Stretch your arms up high. Goodbye. There they go, walk this land, follow a little star that shines just for them. Stretch your arms up high. Goodbye, goodbye. There they go, walk this land, follow a little star that shines just for them. Stretch your arms up high tonight. Goodbye. They go walk this land, follow a little star that shines just for them. Stretch your arms up high. Goodbye, goodbye. There they go walk this land, follow a little star that shines just for them. Stretch your arms up high. They go walk this land, follow a little star that shines just for them. Stretch your arms up high. Goodbye. Goodbye. anche poi il brano musicale. Come ti senti? Già. Emancipata rispetto alla scorsa puntata? Io sto crescendo e del resto essere al Coxo Spaziale è un percorso di formazione. E ciò nonostante rimaniamo sul pezzo e andiamo con la seconda. Vado di stacchetto. Sabato 28 dalle 15 alle 21 Dina Market di Natale a Dinamo. Cos'è? Dino, ma come non lo sai? No. Ma allora bisogna subito informare. Facciamo una piccola lezione. Dinamo, la velostazione di Bologna, questo posto che è stato aperto all'inizio di Via Indipendenza. Ah, ma sì! Che insomma è molto utile per chi ha le biciclette. È vero. Si fa parcheggio, ma si fanno anche tante attività, fra le quali il Dinamarket di Natale, che è il mercatino natalizio di Alter Alias, associazione culturale che sbarca dalla vera stazione di Dinamo in Via Indipendenza, dove poter giocare d'anticipo per fare i regolini di Natale. Ah, interessante. Molto. 28 novembre, ore 22, un evento che ha luogo al Cortile Caffè e sì. Che però te lo rimbalzate di okay, nuovo. Ok, c'entra ormai anche qua Fedra, vedi, a macchia d'olio mi muovo. No, sì, il 28 novembre sarò con Marco Sbarbati, amico e cantautore, in concerto al Cortile Caffè di Via Nazario Sauro. Proporremo quindi le nostre canzoni, ma sarà anche uno spettacolo insomma un po' raccontato, quindi... Ma ci sarà anche Paolo Piermattei. Paolo Piermattei sicuramente ci sarà a vederci. Vengo a vederlo. Verrà a vederci. Ma non canta? No. Ma chissà, adesso che lo dici tu, magari se tu vieni al Cortile Caffè e dici voglio sentire Paolo che canta, lo obbligheremo a cantare. Anche se tu poi tra un po' avrai un altro progetto in cui ospiti. Però di questo parleremo nelle prossime un altro lezioni. Momento. Sì, ricordatevi il 28. Ma Roberta, sei diventata una menzionatrice sopraffina. Sì. Io non mi fermo più, Fedra. Sentirò moltissimo la tua mancanza. Ti chiamerò al telefono per farmi dire un po' di menzioni così. Ma tornerò, ne sono certa. Ma adesso di cosa dobbiamo parlare, Fedra? Secondo me di quella cosa che era rimasta in sospeso. Vero, Paolo? Certo. Che poi c'è anche una grande sorpresa. C'è una sorpresa nella sorpresa. Che riguarda anche il nostro super mega ospite. Sì. Comunque, ritornando a noi, il progetto che vi vede insieme e che parla proprio di queste dinamiche anche un po' poco chiare, che finiscono per essere torbide. Esatto. È The Dark Side of Music, sì. Di cui abbiamo già parlato due settimane fa, sì. E che finalmente ritorna. Sì, perché adesso l'11 dicembre ci sarà 11. Il prossimo appuntamento al Teatro del Navile di Bologna, appunto con Paolo, me, Marco Sbarbati, Silvia Salerno, e ci sarà anche un altro ospite. Un ospite nuovo, diverso. Certo, stavolta ci sarà sì, un ospite. In tutte le puntate c'è un ospite diverso. Un cantautore. Che la volta scorsa era Nicola Sbonazzi. E si approfondiva il tema di Sanremo. Sì. Invece questa volta chi sarà mai? È un personaggio misterioso che tra l'altro ha avuto anche il piacere ultimamente di esibirsi anche all'estero, quindi addirittura apriamo, Se è misterioso a noi ce lo sveli come scoop. Ma coxico. Perché lo possiamo farlo svelare da solo? No? Sì. È in linea forse? Mistero. Il personaggio... Chi è? Eccolo! Sento qualcuno. Chi sei? Chi sei, ospite misterioso? Non lo so, ho vinto qualcosa. No, quasi non si vince niente. Se ne parlava prima, sentirai. Nulla. Rivelati come un oracolo. Mi rivelo. Buonasera a tutti, mi chiamo Alberto Mussi o Mister Alpo. Mi sento leggermente a scatti, però sì. Spero. Noi ti sentiamo benissimo. Noi ti sentiamo benissimo. Okay. In pratica chi sono io? Chi sei? Bella domanda. Sì, secondo me hai a che fare con la musica, eh? Ho leggermente a che fare con la musica, sembra di stare a indovina chi, porta gli occhiali oppure no. No, se sei così umile da non volerlo dire, io posso farti una mega presentazione, però mi piaceva che ti presentassi da solo ai telespettatori. Allora, faccio una breve antipasto, in pratica sono cantautore da un bel po' di anni, di più o meno da quando ne avevo 8, adesso ne ho 26, quindi fate voi i conti. E adesso vivo in pratica tra l'Italia e la Germania, faccio 10 giorni al mese a Berlino, 10 giorni a Monaco, 10 giorni a Milano per fare una cosa misteriosa che si chiama musica, ovvero scrivere canzoni e cercare di portare un po' di allegria in giro. Quindi ci parlerai sicuramente dei tuoi viaggi, durante... Cioè della musica sul profilo internazionale, come va all'estero, le differenze tra chi è lì. Sì. Ah. Sì, anche quello di sicuro, di sicuro. Siamo di sicuro. Molto incuriositi da questo percorso. E a te da domani su www.coxospaziale.blogspot.com ti se può vedere una foto, ti se può ascoltare un link, perché qua ci sono altre persone che non sono dal vivo. Certo. Ok. Allora... Lui è raggiungibile, c'ha sito, c'ha video su YouTube. Quindi da domani su www.coxospaziale.blogspot.com anche per svelare ulteriormente questo ospite misterioso che per noi coxonauti misterioso non è più. grazie Mister Albo, noi ti aspettiamo l'11 dicembre al Teatro del Navile con noi. E io sarò in prima fila. Ecco, così ci conosci tutti. Perfetto. Sarà un mio onore. C'è una domanda da Pierre. Sì, ti faccio una domanda. Okay. Ma tu in Germania fai un po' di Dark Side of the Music? Dark Side of the Music è ovunque in realtà. Ecco. E su questo io metterei pure lo stacchetto. Sì. Ciao Mister Albo, grazie. Ciao Mister Albo, a presto, ti chiamo presto. E io lo stacco, tra un po' lo rimetto, perché, cioè, anzi il rullo di potamburi ci vorrebbe, ma non ce l'ho, e perché abbiamo un brano in cui si può ascoltare la voce di Paolo Piermattei. Ha spaccato il microfono. Ed è un brano che fra l'altro è il mio brano preferito del 2015. L'abbiamo già ascoltato, lo ascolterei sempre comunque, quasi come anzi Dirty Projectors, che ormai non ne fanno più di brani, perciò Fuligine a palla, e beccatevi Fuligine. Sì. E tante grazie a Paolo Piermattei, grazie a voi per essere stato il super mega ospite del Coxo di 200. Della 119esima puntata di Coxo Spaziale. Grazie, da domani scaricabile su www.coxospaziale.blogspot.com. Come lo dice veloce. Ciao Pasquini. E ti fanno i complimenti e ti danno consigli finti. C'è chi spera che ti sbagli. Uè, tanto prima o poi ti spogli. Intelligente ma non troppo, e la scemenza che fa colpo. Ci serve un pezzo bello fresco, non puoi essere depresso. Fuligine, questo è solo fuligine. Fuligine, resta solo fuligine. Datti una motivazione per la tua emancipazione. Fatti fare un tatuaggio. Scarrafone o scarrafaggio. Metti pure il parrucchino, ci vuole un look più sbarazzino, delicato ma non troppo, né sfigato né finocchio. Occhio. Fuligine, questa è solo fuligine. Bisogno di una mano, perché tu non sei nessuno. Io so quello che ci vuole, io maneggio le pistole. Bang, bang, bang, bang, bang. Questa è la sua strategia, mi ha portato a casa sua, ha tirato fuori l'arma. Metti qui una bella firma. Questa è solo fuligine, ah, ah, ah, fuligine, resta solo fuligine, ah, ah. Oh, leggimi il labiale, io non sono un cantautore, io posso farti male perché non so cantare. Ehi, ci vuole un po' di graffio, mi sembri un epitafio. Sai che fa successo solo quello che fa schifo. E allora io ti faccio il tifo, ma tu fammi schifo. Fuligine, questa è solo fuligine. Ah, ah, ah. Fuligine, questa è solo fuligine. Ah, ah, ah, ah. Fuligine. Ehi, Pasc. Ma che bello che ci stai anche per il 119. Poi hai sentito che bel brano, Fuligine. Ah, sei ancora in modalità stalker di Roberta Giallo. No, sai che la Roberta è qua anche stavolta, l'hai sentita? Io sono sempre qua. Purtroppo l'ultima volta. E c'è anche Paolo Piermattei. Ciao. Lui chiedeva chi è di te, giustamente, nella sigla. E no, ad... Sbatta Camino, giusto? Sbatta Camino? Chi? Ma rispetto a Fuligine? Forse rispetto a Fuligine. Beh, però come metafora non è male. Gli spazzacamini della musica, noi facciamo pulizia, puliamo la cappa. Vedi che è sempre avanti il W. Però descriviamo anche tutto lo sporco. Certo, noi ci sporchiamo Fuligine. E poi puliamo. Ma Stefano, ti rendi conto che questa è l'ultima volta che Roberta Giallo è in veste W? Come ti senti rispetto a questo? Nudo, sempre più stalker. Sì, ormai... Beh, vedremo se il prossimo co-conduttore mensile ti farà lo stesso effetto. Io dubito fortemente. Ma non potrebbe, se no, essere W Pasquini in telefonica? La vedi scomoda? Ecco, il giovedì sera che è un disastro. Ah, è proprio la fascia. No, però se si preregistra. Però ho detto di tornare in radio. Insomma, per facciamo farti tutti vedere. Un bel. Dico mio Ciao Pasco. Lo chiamerai a fare il co-conduttore. Sì, così lo registro dal viaggiando. Vabbè, dai, Pasca, abbiamo sforato anche troppo. Ciao Stefano W. Ciao. Ciao belli. Dove stai a sto giro? Sarà. Solo così. Come? Dove ti trovi? Un freddo becco qua a Torino. A Torino sai, quindi per tutte le fans del W è ancora a Torino. Sì. Ciao. Ci pensiamo. Ciao. Alla prossima. E grazie a ciao, tutti per aver reso straordinaria questa puntata, questa 119, 198, 100, insomma quella lì. 119. Che bella puntata, bellissima. Poi ragazzi, no, la Robby Yellow W. Sì ragazzi, non vedevo l'ora di stare qui per potermi esprimere con tutta la mia gioia. State bene. C'era anche un'altra controparte in The Dark Side of the Music, no? Lo vuoi fare? Qual è? A per app. Vabbè, troppe anticipazioni. Eccolo. Riemerge. Non troppe anticipazioni, abbiamo già svelato. Venite tutti, venerdì 11. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Terror from outer space. Sono lo stalker di Roberta Giallo e voglio sapere com'è vestita mentre ascolto Cloxo Spaziale. Sono Roberta Giallo, questo è il jingle per il mio stalker, sono vestita di grigio rosa e sto ascoltando Coxo Spaziale. Ingolato. Uè, sto ascoltando Coxo Spaziale. Ma chi sei? Squalo Marcio.